Il professor Giacomelli, che ringraziamo di essere venuto, ci parlerà dell'organizzazione della scienza psichiatrica in Italia nella seconda metà dell'Ottocento. Io farò poi un intervento integrativo nella logica anche del nostro gruppo sui rapporti tra Lombroso in particolare come studioso di criminologia e psichiatria e le scienze penalistiche degli anni 70, l'uso di materiali statistici da parte di Lombroso. In parte questo deriva anche da un'operazione che abbiamo in corso da tempo con Giacomelli. Ci siamo messi un po' avventurosamente insieme a Delia Frigessi in tre a fare un'antologia di scritti di Lombroso, divisa in varie parti, e quindi si collega a scambi di idee che abbiamo avuto negli ultimi tempi. Il professor Giacomelli è primario psichiatra per i servizi di salute mentale a Bologna con competenza sull'ospedale civile, ma è qui nella sua veste di studioso di storia della psichiatria dell'Ottocento, della Prima Guerra Mondiale. E gli do la parola, ringraziandolo ancora. Consentitemi di completare, diciamo, la presentazione fatta da Luisa Mangoni. Io sono un medico psichiatra e non sono un storico professionale. Sono uno di quei psichiatri che, come molti altri, che si è interrogato sulle origini della propria disciplina a partire da momenti di crisi, momenti di critica diffusa e radicale che abbiamo attraversato nello storico, intanto per una sorta di tentativa di captazio o benevolenza in questa sede accademica, ma per il carattere che probabilmente si avvertirà nella mia esposizione, un carattere di storia vissuta, derivante dal mio essere nella pratica della psichiatria. Ho attraversato tutte le trasformazioni della psichiatria dal più profondo manicomio negli anni 50 fino ad oggi. E l'essere nella pratica dà allo psichiatra, io credo, lo psichiatra che più o meno coscienziosamente poi si fa ricercatore storico, la possibilità di percepire problemi concreti e specifici nascosti nelle pieghe spesso altrimenti inesplorate del rapporto fra le idee, i programmi teorici e le pratiche reali della psichiatria. Hackenknecht, del resto, sottolinea la grande importanza degli elementi non ideologici nelle ricerche di storia della psichiatria, che è qualcosa di più, scrive, che una storia di teorie e ideologie è qualcosa più che una storia della letteratura psichiatrica. E quindi sono grato anche per l'occasione offerta qui una rilettura della storia della psichiatria italiana da discutere in una sede seminariale, quindi auspicabilmente di dialogo, di interazione, perché avverto la necessità e l'urgenza, anzi, di stabilire collegamenti trasversali, sincronici, o meglio direi transdisciplinari o extradisciplinari fra momenti, eventi, carattere della psichiatria e i contestuali cambiamenti sociali, culturali e istituzionali. Questo credo che può aiutare lo storiografo della psichiatria di commettere due tra i principali errori che classicamente si commettono quando si prende in considerazione la psichiatria: di considerarla come unico, sovente ridotto all'uovo di nepozio, altrove irripetibile, autoreferenziale o al più riferibile a o espressione di una sorta di quintessenziale potere assoluto, e l'altro errore polarmente opposto all'impresa insieme scientifica, filantropica, umanitaria, da collocare nel percorso di un progresso lineare della medicina secondo la prospettiva ben nota della storicità dei mezzi e della storicità dei fini. Quindi ho scelto di trattare il tema che mi è stato proposto in modo da ricostruire il percorso della psichiatria italiana nella seconda metà del XIX secolo, che poi tutto sommato è tutta la storia della psichiatria italiana, seguendola in quegli aspetti che a me paiono essenziali o che, per meglio dire, la costituiscono come disciplina riconoscibile nella sua autonomia, se non nella sua specificità. Sfioro appena il problema appunto della specificità della psichiatria, nel quale non credo che si possa entrare. Se ne discute tutt'oggi sul piano teorico e su quello pratico, sono discussioni attualissime addirittura sulla collocazione negli assetti istituzionali della fisionomia organizzativa della psichiatria. Io preferisco seguirla nel suo progressivo darsi oggettivo, fenomenico, nel suo delinearsi sulla scena della società italiana, come peraltro nel resto dell'Europa, società che a un certo punto della sua evoluzione produce qualcosa che appare situarsi all'incrocio o forse nell'interstizio fra l'area delle discipline delle istituzioni sanitarie e quella delle istituzioni amministrative e giudiziarie deputate al controllo dei comportamenti socialmente indesiderati. Questo qualcosa è appunto la psichiatria, che ha alle spalle secoli di storia delle diverse modalità e delle prospettive con le quali le società hanno affrontato il problema della follia, modalità e prospettive che peraltro non sono ancora psichiatria, nonostante sforzi degli psichiatri, non diversamente da altri soggetti di campi disciplinari diversi, soprattutto e tipicamente direi della medicina, sforzi, dicevo, di riconoscersi e di annettersi un passato illustre con antenati prestigiosi e precursori più o meno oscuri. In realtà la psichiatria come tale è una disciplina moderna. Il termine psichiatria compare nel lessico francese nel 1802 come psichiatrie, in tedesco come psichiatrie nel 1803. In italiano pare cominci a diffondersi solo dopo il primo ventennio, addirittura del secolo scorso. Moderni sono i quadri tecnici della psichiatria, cioè gli analisti, che si distaccano e si differenziano non senza contrasti e risolte ambiguità dalla categoria dei medici a partire in generale tra la fine del Settecento e l'inizio della prima metà dell'Ottocento, quando si avvia l'unificazione definitiva degli stati nazionali. Qui darei una mia prima convinzione o acquisizione sulla storia della psichiatria. La psichiatria nasce e si organizza come funzione di Stato, direi in funzione addirittura dell'edificazione dello Stato, almeno in Italia. Se guardiamo alle scansioni temporali, alle coincidenze di eventi, alle biografie individuali degli analisti, ai problemi concreti che costituiscono i contenuti prioritari della psichiatria, all'intreccio strettissimo tra le vicende della psichiatria stessa e le vicende politiche, sociali, amministrative, legiferative dello Stato unitario, mi pare evidente come la storia della psichiatria italiana si identifichi, in quanto psichiatria nazionale, con la storia dello Stato unitario. Detto diversamente, non può darsi una psichiatria nazionale sinché non esiste uno Stato unitario. Nello Stato la psichiatria appare essere un elemento costitutivo importante, un nodo indispensabile nella rete delle diverse istituzioni sociali statuali, al pari delle forze armate, del sistema dell'istruzione, del sistema della giustizia e di quello di polizia. Ovviamente prima della psichiatria nazionale esistono le psichiatrie locali, esistono dei manicomi, ospizi più o meno antichi, delle forme di gestione più o meno segregante o caritativa degli alienati. Esistono almeno due istituzioni famosissime in tutta Europa, una a Palermo e l'altra ad Aversa, nel Regno di Napoli. E da questo terreno comincia a delinearsi una psichiatria a partire da atti di politica assistenziale o politica urbana e o territoriale. Sarebbe interessante vedere indizi e tracce, informazioni ce ne sono, l'effetto del pur breve Regno d'Italia, con azioni di razionalizzazione e di innovazione, di derivazione francese, di cui troviamo tracce abbondanti, ripeto, negli archivi di alcune città dello Stato Pontificio, in particolare Ancona e Bologna. Ecco, da questo terreno sorge la psichiatria italiana, come sorge, come dire, dell'idea di nazione, dell'idea di Stato unitario. Ci sono alcuni elementi costitutivi della nuova disciplina, della nuova comunità scientifico-professionale, sui quali a nuovi flash cercherò di concentrare la mia attenzione. Prima le riviste scientifiche, che fanno veramente la psichiatria italiana. Come era avvenuto per la Francia con le Annales médico-psychologiques fondate da Bayergé nel 1843 e per la Germania con l'Allgemeine Zeitschrift nel 1844, anzi, sull'esempio di queste due pubblicazioni, per l'Italia il passo decisivo del processo di costituzione della psichiatria fu la creazione di un organo di stampa a carattere nazionale. Sul finire del 1843 vennero annunciati ad Ancona dall'umanista filosofo Benedetto Monti, direttore del manicomio di Ancona, gli Annali antropologici, che in realtà non videro mai la luce. Nello stesso anno, quindi ripeto 1843, ad Aversa compare un giornale con un strano titolo che era il giornale medico storico statistico del reale morotrofio delle due Sicilie per la parte Citeruolo Alfano. Tutto questo è il titolo, che è considerato storicamente il primo periodico italiano di psichiatria. E dell'interesse esclusivamente locale ci sono le pubblicazioni del 1845. Il compito di dar vita alla prima rivista di psichiatria autenticamente nazionale toccò a Milano, Andrea Verga, nato nel 1811 e morto nel 1995, che fu il vero artefice della psichiatria italiana e per lungo tempo il patrono della psichiatria italiana. Verga pubblicò una appendice psichiatrica alla Gazzetta Medica Italiana Lombardia. La Gazzetta Medica Italiana era un periodico estremamente importante, un settimanale, consideriamo i tempi, siamo alla prima metà del secolo, giungeva capillarmente in tutto l'Italia settentrionale, recava il sottotitolo Atti ufficiali del Lombardo-Veneto del Ducato di Modena. Il numero dell'appendice psichiatrica è del 2 febbraio del 1852 e si apre con una lunga prefazione che meriterebbe di essere letta perché è il manifesto proprio della scienza psichiatria italiana con un esplicito carattere nazionale ed anzi direi nazionalistico. Questa prefazione contiene tutti i presupposti essenziali alla costituzione formale della psichiatria e tutti i temi che avrebbero impegnato gli psichiatri nei decenni successivi. L'iniziativa accoglieva esattamente lo spirito dei tempi. L'appendice psichiatrica si affermò rapidamente come momento di coagulo delle forze sparse dell'alienistica nazionale. Su di essa spissero tutti, compreso il nostro Lombroso. E nel 1864 poté trasformarsi in una vera e propria rivista autonoma, che è la prima rivista vera e propria italiana di psichiatria, che si intitolava L'archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali. Strumento fondamentale della psichiatria italiana in questa prima fase della sua costruzione. E ancora Verga nel primo numero detta un programma così definito che contribuisce a definire quella sfera pubblica che ormai è destinata ad essere propria della psichiatria, la sfera in cui confluiscono medici, giuristi, politici e amministratori. E ancora una volta il programma della psichiatria si chiude con un richiamo all'attualità nazionale e all'impegno politico. Scrive il Verga: "Ritengo che preoccupazioni politiche possano nuocere alla nostra impresa. Anche i medici e gli alienisti hanno l'occhio su Roma e Venezia, siamo nel 1864, e molti di loro sono pronti di lasciare all'occasione la penna per la carabina. Del resto, i pacifici studi contribuiscono anch'essi a sviluppare, a perfezionare l'organismo nazionale, a fare l'Italia." Sottolinea un po' questo impegno, ancorché in toni romantici e nazionalistici, ma era veramente un impegno militante di tutti i quadri psichiatrici dell'epoca. L'Arturo durerà fino al 1891. In questo anno si fonde con un ministro che era nato nel 1875 e che è, titolo completo, la rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali. Sottolineo anche qui l'intreccio fra la psichiatria, le scienze giuridiche e sociali e la medicina legale. La rivista sperimentale di freniatria è ancora viva in vita, si pubblica a Reggio Emilia ancora oggi ed è il più antico periodico italiano di psichiatria. Con questo stesso titolo, la rivista sperimentale di freniatria. La scomparsa dell'Arturo sancirà anche però la fine di un'epoca, perlomeno la fine della prima fase di costruzione della psichiatria italiana, che ha visto l'egemonia del gruppo degli ellenisti milanesi, che potremmo così con una certa approssimazione definire un gruppo laico, un riformista moderato laico, all'impronta laica. Andrea Verga, Serafino Biffi e Cesare Castiglioni. E prenderà il posto il gruppo che invece farà dell'Istituto San Lazzaro di Reggio Emilia il centro della massima espressione in Italia di una psichiatria che ha ormai raggiunto o sta raggiungendo la sua fase matura, proprio nel senso di culmine, è la fase del positivismo psichiatrico. Passarono per Reggio Emilia nell'epoca in cui si pubblicava questa rivista, si cominciava a pubblicare la rivista, tutti più bei nomi della psichiatria nazionale, sia manicomiale che universitaria, a cavallo dei due secoli. E lì passarono anche dei visitatori stranieri illustri, cui nomi sicuramente saranno noti anche a chi non è psichiatra: Charcot, Krafft-Ebing, Kraepelin, soggiornarono a lungo a Reggio Emilia, oltre a vari altri stranieri. Appunto in questo istituto San Lazzaro di Reggio Emilia nel 1875, Carlo Lini, che proveniva da Siena, e Carlo Lini era uno che aveva combattuto a Curtatone a Montanara, ad esempio, con il giovane Enrico Morsallora, Enrico Morselli, Augusto Tamburini del Genio Tanzi, che poi saranno tutti e tre illustri direttori di manicomi cattedratici famosi, fonda la rivista sperimentale di freniatria, baluardo della psichiatria positiva, scientifica, in senso lato genericamente materialistica. Nel primo numero della rivista, lo stesso Lini firma il programma, esplicitamente detto programma, che porta il titolo significativo del metodo sperimentale in freniatria e in medicina legale. Dice tra l'altro, consentitemi una citazione un pochino più lunga, e questo è uno degli intendimenti che si propone il nostro giornale, studiare soprattutto l'uomo alienato, studiarlo nelle cause, nei sintomi, nelle condizioni somatiche della sua malattia, nei rimedi curativi. Ma di tutte queste pertinenze morbose, quelle che per noi è fondamentale è l'anatomia patologica, il microscopio e la sperimentazione, d'accordo con l'osservazione clinica, saranno sempre i tredicesimi maestri che ci porteranno avanti in quell'ardita esplorazione del regno materiale del mio umano che si chiama cervello. Quindi una fondazione somatologica assoluta sulla quale richiamo l'attenzione, perché sarà messa in questione e comincerà a incrinarsi, e quindi la psichiatria italiana comincerà ad aprirsi attivamente alle correnti culturali europee più vive, ad acquisire una dimensione più propriamente antropologica o potrei anche dire umanistica, solo nel secondo dopoguerra. A partire dal 1950 inoltrato. Quanto al rapporto con la società, sempre nel programma di Lini, si esprime con chiarezza quel ruolo che la psichiatria sa ormai di poter assumere. Tra brevi citazioni. Ora la nostra scienza, che ha in mano per così dire l'organo del pensiero, è quella, se io non erro, che è chiamata dalla propriamente ragione a rivelare l'uomo se medesimo, a indicare alla società altre leggi della nuova vita civile e morale dei popoli. Lo studio delle anomalie psichiche può dire al filosofo, all'antropologo, al medico legale, al legislatore, al magistrato, allo statista, quello che da nessun'altra scienza forse potrebbero sapere. È vero che nelle parole di Neri risuona soprattutto forse il momento della nuova scienza positiva che si batte contro le vecchie formulazioni spiritualistiche e metafisiche e per una razionalità dell'agire medico-sociale. Tuttavia non va trascurata la pretesa della psichiatria di dettare una normatività generale valida per gli uomini come per gli stati. Questa pretesa che ricompare con una costante sempre più esplicita, almeno fino agli anni della Prima Guerra Mondiale, contrassegna, mi pare, la definitiva partecipazione della psichiatria italiana al sistema in cui si articola il potere del nuovo Stato sorto dal Risorgimento. A queste due riviste, che sono, direi, le riviste madri, nel 1880 si affiancherà poi l'archivio di antropologia criminale, fondato da Cesare Lombroso, sul quale non mi soffermo perché ci sarà molto da dire poi. Però vorrei ricordare un fenomeno non da tutti conosciuto, cioè che nell'ultimo terzo, ultimo quarto del secolo scorso vi fu una miriade di periodici editi dai vari manicomi, dei bollettini periodici, quindicinali o mensili, delle varie istituzioni manicomiali locali, che furono dei potentissimi strumenti di rapporto con la comunità. In concreto venivano spediti a tutti i medici condotti, ai sindaci, alle famiglie che avevano dei ricoverati nell'ospedale psichiatrico, ai farmacisti, insomma, in generale era una diffusione capillare di questi fogli di notizie e di diffusione, di divulgazione, di volgarizzazione delle conoscenze scientifiche della psichiatria, che probabilmente produssero una concezione della follia, del ruolo sociale dello psichiatra, che sicuramente non è stato privo di importanza nel far crescere il proprio male, nel far radicare la psichiatria nella società. Alcuni di questi bollettini poi si trasformarono in riviste che rapidamente hanno arricchito, almeno fino pochissimi anni fa, fino ai nostri giorni, insomma, la pubblicistica psichiatrica. Secondo cardine della nuova disciplina sono la società scientifica. Se noi volessimo indicare il momento in cui la psichiatria italiana nasce ufficialmente, cioè riconoscendosi formalmente come attività autonoma sul piano concettuale e operativo, attività esercitata da una categoria distinta di tecnici o di intellettuali specialisti, potremmo dire che questo momento ha una data ben precisa. Il 23 ottobre del 1873 si teneva a Roma l'undecima riunione degli scienziati italiani, gli alienisti convenuti si separarono dagli altri medici che erano riuniti in seduta generale e si appartarono, come scrivono, in sezione distinta per trattare taluni temi di alta importanza relativi alla loro specialità. C'era quindi una consapevolezza di essere degli specialisti diversi dagli altri medici. A questa riunione, a questa piccola secessione, parteciparono 12 psichiatri per la storia. Taluni erano famosi già all'epoca: Clovemiro Bonfigli, Giuseppe Girolamo, Carlo Lugli, Andrea Verga, eccetera. Uno sarebbe diventato ancora più famoso ed era Cesare Lombroso. 12 psichiatri e un architetto, Francesco Azzurri, autore del progetto per il nuovo manicomio di Roma e membro della Société Médico-Psychologique di Parigi. Altri alienisti poi aderirono per lettera, insomma, e per la prima volta quindi nella serie dei congressi degli scienziati italiani, avviata, ricordo, come il primo congresso tenutosi a Pisa nel 1839, si organizzava formalmente una sezione specialistica diversificata rispetto a quelle fondamentali e onnicomprensive della medicina e della chirurgia. È denominata la sottoclasse fregnatura della classe medico-chirurgica. L'iniziativa rispondeva ad un'esigenza politica e istituzionale ormai matura, Ricordo che c'erano stati dei precedenti. Nel 1848, in un clima politico facilmente immaginabile in quell'anno, vi fu un importante scritto del bolognese Domenico Grandi, direttore del nucleo del manicomio di Bologna di quell'epoca, nel quale si propone un'associazione fra i medici alienisti italiani, un piano di lavoro che è un vero e proprio programma politico, organizzativo e scientifico. Addirittura Biagio Miraglia, direttore della Reale Neurotrofia di Aversa, il 2 giugno del 1861 aveva fondato una società frenopatica italiana, scegliendo il 2 giugno, cioè la festa nazionale, per sottolineare il carattere fortemente politico e patriottico della sua iniziativa. Di questa società si perdono ben presto le tracce e sì, lo ricordo come un precedente invece a quella sezione frenatica costituita a Roma che immediatamente dà senso alla propria presenza, grintosa, con intenti immediatamente operativi, con un ordine al giorno che prevedeva, aperte le virgolette, 4 punti. Primo, costituzione di una società psichiatrica italiana. Secondo, petizione al governo con cui si invochi una legge che tuteli gli interessi degli alienati. Terzo, classificazione uniforme delle malattie mentali. Quarto, progetto di statistica generale dei pazzi del regno. È importante questo tentativo di questa esigenza immediatamente espressa di unificare anche scientificamente le conoscenze di quell'Italia che si stava unificando politicamente. Per curiosità ricordo anche che nei giorni successivi all'approvazione dello statuto della nuova associazione vi fu una notevole discussione sul nome da dare alla stessa associazione. Non si chiamerà psichiatrica come qualcuno avrebbe voluto, in analogia con le associazioni simili francesi o tedesche, ma frenatrica, su proposta di Carlo Levi, per motivi linguistico-nazionalistici e per motivi ideologici, ed anche questo è un senso della cultura nel tempo. La parola psiche, scrive Carlo Levi, rappresenta l'anima secondo il concetto platonico, mentre fren rappresenta il complesso delle forze dinamiche dell'organismo. E con lui avvenne una società frenatrica italiana, che cambierà la sua denominazione diventando Società Italiana di Psichiatria, l'attuale Società Italiana di Psichiatria, intorno agli anni 30 del nostro secolo. Sorvolo su altri argomenti così discussi in quelle prime riunioni e passo, come dire, a sottolineare l'attività organizzativa di questo gruppo di psichiatri che immediatamente un anno dopo, nel 1874, tennero il primo congresso della società frenatica a Dumalo, parlarono di classificazione delle malattie mentali e adottarono una proposta di Andrea Erga di uno schema classificatorio per un primo censimento generale degli alienati del regno. Parlano della trasfusione di sangue di agnello negli alienati, tra l'altro, e della legge sui manicomi. Ci fu un altro congresso, il secondo, nel 1877 ad Aversa, e da lì un po' con una cadenza implacabile, biennale o triennale, il terzo congresso nel 1880 a Reggio Emilia con una lunghissima relazione e discussione sulla pazzia morale, nell'83 a Voghera, nell'87 a Siena, nell'89 a Novara, nel 91 a Milano, poi a Roma, a Firenze, nel 99 a Napoli e l'11° congresso nel 1901 a Ancona. A questo punto si apre il XX secolo, la psichiatria italiana si proietta verso il futuro, tenta il bilancio dei decenni precedenti. Ci sono delle ampie relazioni generali che tentano una sintesi dei progressi della neuropatologia e della psichiatria. Si apre un dibattito molto interessante, anche se un po' sconfortante. Sconfortante dal punto di vista comune del nazionalistico, ecco. Il dibattito sull'open door si estende sul non-restraint system, cioè sui metodi di trattamento manicomiale della malattia mente senza costrizione meccanica e con la porta aperta. Dico sconfortante perché la maggioranza degli alienisti nazionali era contraria a questi metodi d'Oltralpe, inglesi soprattutto, definiti non adatti ai latini, molto più caldi, molto più... E quindi da legare. Selvaggi, sì. Ecco. Un terzo cardine della psichiatria italiana, il vero cardine, poi, quello che sostanzialmente la fonda, è il sistema manicomiale. Il cardine è la matrice della psichiatria nella sua formazione, al punto che dobbiamo dire che la nascita del manicomio precede la nascita della psichiatria. E questo consentire una rapida citazione delle parole dei due massimi alienisti italiani dell'inizio del secolo, Tanzi e Luvero, cattedratici in Tanzi a Firenze e Luvero a Torino. Non bisogna dimenticare che lo studio delle malattie mentali cominciò ad acquistare qualche continuità solo verso la fine del secolo XVIII. Fino a quell'epoca i pregiudizi religiosi e filosofici si permettevano di cercare, del resto con poca fortuna, la sede dell'anima nel corpo, comprimevano ogni altra tendenza che fosse contraria allo spiritualismo. E la vita della psichiatria, salvo i felici periodi della civiltà greca e latina, fu un letargo prolungato senza acquisti nuovi e senza nemmeno la memoria degli acquisti precedenti. Lo stesso risveglio del secolo XVIII non provenne che in piccola parte da ragioni scientifiche. Più che la maturità della medicina, fu una maggiore sensibilità sociale che, imponendo la creazione dei manicomi, creò anche gli alienisti. Li creò prima che fosse rinata la psichiatria, appunto, con l'ardua missione di farla rinascere. Ecco, uno però da questo scritto, nella prefazione del loro trattato, a parte così una storiografia ad uso un bel fine proprio di autolegittimazione, in passato come errore, laicismo e anticlericalismo si sentono nella trama del discorso. Ma si allude soprattutto al fatto che il manicomio diventa il luogo privilegiato che consente la nascita della psichiatria in quanto consente l'osservazione dell'uomo alienato. Esso anzi detta le condizioni dell'osservazione scientifica, sperimentale, cioè le condizioni costanti, dei fatti da cui risalire alla teoria e magari realizzare, come è stato detto dagli stessi autori, l'anatomia del vivente. Diventa così manicomio matrice del corpo storico della disciplina e, come dirò tra poco, anche culla dell'insegnamento universitario della psichiatria. Diventa l'autentico nome tecnologico della linguistica italiana nella seconda metà, ultimo terzo dell'Ottocento. È ciò che giustifica e garantisce la figura specialistica dello psichiatra che concepisce il manicomio e lo adopera come supremo strumento terapeutico. Si sviluppa così una, aperte virgolette, novella fase la quale ha elevato l'antico empirismo della tecnica manicomiale, cioè della pratica applicazione della psichiatria nel trattamento degli alienati, alla dignità di una scienza e al tempo di un elemento sociale della più alta importanza. 1918, Tamburini, Ferrari, Antonini. Quindi assistiamo in quegli anni, veramente in quei decenni, a dei virtuosismi, lo chiamo così, del perfezionamento manicomiale, della previsione della prevedibilità assoluta dei tempi spazi dell'esistenza all'interno del manicomio. Ci sarebbe veramente da sorridere, magari amaramente, ma a ricordare le pubblicazioni e le invenzioni sempre più raffinate e minuziose proprio della gestione della vita quotidiana dei pazienti nei manicomi. La vita dei manicomi subisce una serie di degrado, di un progressivo affollamento dovuta a un bilancio sempre più negativo fra entrati e usciti, quindi una cronicizzazione. Nel 1890 il Ministero dell'Interno affida l'ispezione dei manicomi di Avellino una commissione composta da Lombroso, Tamburini e Scienzi, e l'aumento dei ricoverati risulterà più che da pazzi nel vero senso della parola, la frase è citata, è dato dalle seguenti categorie: idioti, alcolisti, epilettici, pellagrosi, dementi apoplettici, paralitici, senili, dementi cronici, tranquilli e innocui, degenerati morali. Ecco, ormai il manicomio, alla fine del secolo scorso, è un universo concentrazionario di devianti e sofferenti di ogni tipo. All'epoca di questa inchiesta, nel 1890, erano 25.000 i ricoverati circa nei manicomi nazionali. Diventeranno oltre 120.000 negli anni 60 del nostro secolo, quando il processo continuerà inarrestabile fino al 1978. Alla vigilia della prima guerra mondiale si contavano in Italia 59 manicomi pubblici, di cui 3 giudiziari, 30 manicomi privati, 51 altri istituti che comunque ricoveranno alienati, 4 istituti per fremistanici, clinico universitario di psichiatria. Su 69 province italiane, 47 ormai erano provviste di manicomio. Qualche minuto ancora fa, perché c'è un altro cardine della storia della psichiatria italiana, che è la psichiatria nell'università. E naturalmente qui poche cose, perché il tema richiederebbe proprio l'approfondimento della trama di fondo, della struttura dell'università italiana, che è solo abbondantemente delle mie competenze. Va premesso comunque che gli psichiatri, alle loro origini o all'origine della istituzionalizzazione della psichiatria, rappresentavano un gruppo molto eterogeneo. Abbiamo detto che la psichiatria nasce con i manicomi in determinata epoca. Dal punto di vista della formazione specialistica, ecco, questi signori, questi alienisti che cominciavano a lavorare nei manicomi, alcuni avevano iniziato nei primi ospizi manicomiali, diciamo, poi faranno tutta la loro carriera all'interno del manicomio, magari diventando direttori. Naturalmente, quando pensiamo al manicomio dell'Ottocento, non dobbiamo pensare al grande ospedale psichiatrico moderno, insomma. Si parla di un direttore, un vice direttore e un assistente, al massimo con 3-4 medici, a dirla tutta, insomma, nei più grandi manicomi della prima parte dell'Ottocento. Molti altri provenivano da un'attività medica pubblica, l'ospedale generale, condotte mediche, eccezionalmente la sanità militare, cioè l'esercito. Pochissimi provenivano dall'università, dall'università, non dalla psichiatria che ancora non c'era, ma dalla clinica medica generale o dagli insegnamenti di igiene. Prima del 1860 esistevano in Italia solo due insegnamenti universitari regolari di psichiatria. A Firenze, presso la Scuola Superiore di Medicina, era stato istituito un corso di malattie mentali nel 1841 da Maurizio Bufalini, grande clinico teorico della medicina dell'Ottocento, che poi nel 1844 lo affidò al suo allievo Francesco Guini, che era anche direttore del manicomio di Firenze. A Torino pare che nel 1837, così è scritto, il manicomio dava modo di istituire, per facilitare l'istruzione relativa alla cura delle malattie mentali, una clinica sotto l'ispezione del medico primario. La notizia certa comunque è che nel 1850 l'insegnamento fu affidato a Giovanni Stefano Bonacossa, direttore del Regio Manicomio di Torino, che nel 1851 pubblicò per gli studenti degli elementi teorico-pratici di patologia mentale. Non è escluso che nella stessa epoca anche altrove ci fossero forme di insegnamento. A Bologna, ad esempio, Domenico Volandi era il direttore delle sale per dementi dell'ospedale generale, cioè del nucleo del manicomio di Bologna, era però professore universitario di medicina politico-legale e nel regolamento dell'ospedale c'era un articolo che autorizzava o prevedeva la presenza di studenti in medicina per fare pratica all'interno delle sale dementi. Comunque il manicomio rimane luogo di formazione, di ricerca e sede di produzione del quadro universitario quando, dopo l'unificazione politica del paese, i psichiatri cominciarono a vedere esaudita la loro richiesta di insegnamento regolare della psichiatria. Successivamente a legge Casati del 59, con un decreto del 1862, veniva previsto che tra i 24 esami obbligatori per ottenere la laurea in medicina vi fosse l'esame di clinica delle malattie mentali e sifilitiche da darsi al sesto anno. Questa associazione tra malattie sifilitiche e malattie mentali non è nuova, il grande precursore, l'uomo che sta nel Pantheon della psichiatria italiana, Vincenzo Chiaruggi, in Firenze, era un dermatologo che si occupava anche di malattie mentali. Comunque nel corso degli anni 60 le principali università italiane si dotarono dell'insegnamento di psichiatria. Più precisamente a Bologna nel 1863 fu istituito l'insegnamento di clinica delle malattie mentali collegato alla cattedra di medicina legale, polizia medica e igiene pubblica. Sempre nello stesso anno, 1863, a Napoli fu creato l'insegnamento affidato a Biagio Miraglia, direttore del manicomio di Aversa. A Pavia, l'insegnamento della clinica delle malattie mentali nacque sempre nello stesso anno, nel 1863, per iniziativa di Cesare Lombroso, che iniziò un corso libero e gratuito formalizzato l'anno successivo. Poi a Genova nel 66, a Padova nel 1867 e così via. Insomma, adesso non voglio dettagliare molto. Quello che vorrei dire è ricordare, insomma, che comunque in tutta questa lunga fase che arriva fino all'inizio del XX secolo, gli insegnamenti della psichiatria furono tutti affidati a direttori di ospedali psichiatrici. Le cattedre universitarie sono di fatto e rimasero anche di fatto all'interno dei manicomi. Anche perché significò, come dire, l'inverso, nel senso che anche laddove non veniva istituito un corso universitario di psichiatria o una clinica formalizzata di psichiatria, venivano istituiti corsi di psichiatria presso ospedali o manicomi. Andrea Verga dal 1865 presso l'ospedale maggiore di Milano, insomma. Antonio Berti a Venezia nel 1864, Giuseppe Neri per l'Università di Pisa, sempre presso l'ospedale di Pisa nel 1868. Quindi l'ospedale rimaneva la cura anche dell'elaborazione della dottrina psichiatrica. E rimase a lungo poi questa stretta connessione degli insegnamenti tra la psichiatria ed altre discipline che danno il senso della matrice non esclusivamente medica della psichiatria, no? Ad esempio, Carlo Livi insegnava medicina legale a Modena quando era direttore dell'ospedale psichiatrico a Reggio Emilia. Così c'era l'igiene pubblica e la psichiatria, la dermatologia e la psichiatria, la cosiddetta medicina politica e la psichiatria. I psichiatri avevano vinto quindi la battaglia per avere l'insegnamento di psichiatria, però probabilmente l'obbligatorietà a cui tendevano per l'obbligatorietà di insegnamento per gli studenti di medicina probabilmente non fu tanto pacifica, perché ancora nel 1876 ho trovato nella prolusione di Augusto Tamburini al corso di psichiatria presso l'Università di Pavia delle note polemiche evidenziato a Ruggero Bondi, che pareva mettesse in dubbio che la psichiatria, dice Tangolini, sia uno studio necessario ad ogni medico. Ci sarebbe molto da dire sulle vicende universitarie successive, soprattutto per quanto riguarda la conflittualità con la neurologia. La neurologia si staccò dalla psichiatria nel 1907. Nel 1907 fu costituita la Società Italiana di Neurologia sul modello di quella tedesca, che sta negli stessi anni staccandosi dalla psichiatria. E da quell'epoca la creazione di cattedre autonome di psichiatria e di neurologia, o la fusione fra le due, fu uno dei motivi più grossi di conflitto nel mondo. Ci sarebbe un capitolo estremamente importante da dire ancora. Lo do un po' per noto in un certo senso, perché forse è la cosa più conosciuta, insomma. Cioè, che tutti gli psichiatri, che per tutto il periodo della formazione della psichiatria, gli psichiatri sono battuti per avere una legge specifica che riguardasse gli alienati e i manicomi. Fin dalla petizione rivolta al Parlamento subalpino nel 1849 da Bonacossa e Bertini, fino al 1904, quando fu promulgata la legge Giolitti, rimasta poi in vigore fino al 1978, ecco, è tutto un periodo di polemiche, di battaglie, di lotte per riuscire a ottenere una legge che salvaguardasse i pazienti, regolamentasse i manicomi, ma soprattutto, e questo sarà sempre più esplicito col passare degli anni, sancisse l'autorità e l'autonomia del medico direttore di manicomio. Grandi modelli erano ancora la legge del 1838 francese e nello stesso anno la legge promulgata molto proprio dal Granduca Leopoldo II di Toscana, che furono le leggi più civili, insomma, relative all'assistenza agli alienati. Ed è strano questo tardare ad una legge della psichiatria che arrivò dopo una serie di leggi che sancivano un po' l'ossatura, alcuni aspetti fondamentali dello Stato unitario, insomma. Cioè, io ricordo semplicemente nel 1888 la legge sulla sanità pubblica, nel 1889 la legge di pubblica sicurezza, nel 1990 il codice Zanardelli, poi la laicizzazione delle opere pie e proprio da ultimo questa specie di santificazione della psichiatria con la legge del 1904. Credo così, attraverso questi concludo, questi flash su alcuni cardini della psichiatria, di aver tentato di delineare e personificare l'evoluzione della psichiatria italiana accompagnandola alla soglia del secolo XX. Con la legge del 1904 ormai la psichiatria italiana è istituzionalizzata, solida, compatta. Sta perdendo in gran parte la ricchezza dei fenomeni del secolo precedente, nel quale era facile seguirla in una sorta di bella trasparenza, come dice Robert Castel. Quindi mostrava contraddizioni, conflitti, diversificazioni. Gli psichiatri italiani perdono ormai nel XX secolo una loro caratteristica più vivace, che era la militanza pubblica. Anche se schierati ovviamente dalla parte del potere, insomma, ovviamente proprio per non essere costitutivi della struttura statuale, un po' come i prefetti in fondo, se si vuole, ma con la loro costante e continua rivendicazione della capacità di sguardo specialistico sulla follia, poi spesso riuscivano ad avere anche un'ambigua distanza dal potere, non erano completamente identificabili, ma non sempre, con il potere amministrativo. Questa militanza si concluderà con la massiccia partecipazione della psichiatria allo sforzo bellico della Prima Guerra Mondiale, sotto vari aspetti: partecipazione come servizio tecnico sanitario, come elaborazione scientifica, nevrosi di guerra, la diagnostica, semiologia per la diagnosi differenziale tra simulatori e non e così via, e soprattutto come propaganda ideologica antigermanica. La partecipazione dei psichiatri italiani alla propaganda di guerra contro i tedeschi fu veramente massiccia. Poi diversi psichiatri, non tutti, grazie a Dio, infittiranno le fila degli intellettuali che confluiscono sul neofascismo. Beh, a questo punto si apre comunque un'altra storia che, per quanto mi riguarda, è ancora in buona parte da scrivere. Grazie. Grazie.